525. Petto di vitella di latte in forno. Se io sapessi chi inventò il forno, vorrei erigergli un monumento a mie spese, e in questo secolo di monumentomania credo che ei lo meriterebbe più di qualunque altro. Trattandosi di un piatto di famiglia, lasciate il pezzo come sta, con tutte le sue ossa, e se non eccedesse il peso di 600-700 grammi, potete cuocerlo al forno da campagna. In questo caso steccatelo con grammi 50-60 di prosciutto, più magro che grasso, tagliato fine. Legatelo onde stia raccolto, spalmatelo tutto copiosamente di lardo strutto e salatelo. Collocatelo in una teglia e una decina di minuti prima di levarlo dal fuoco, uniteci delle patate che in quell'unto vengono molto buone. Invece dello strutto potrete servirvi di burro e olio e invece del prosciutto salarlo generosamente.